fatto di gozzarti a perdi. Solo il sicuro e qui vorrei il tuo sguardo, quasi spinta per voi, allor mi credo. Ella mi fu rapita, e chi l'ardia, per te,